Grazie signor Presidente, eccellenza, autorità, signore e signori. Sono particolarmente onorato di poter parlare davanti a un pubblico tanto numeroso e selezionato. E desidero ringraziare l'Istituto Storico Italo-Germanico di avermi dato la possibilità di consegnare queste onorificenze in questo ambito. Prima di farlo vorrei congratularmi con la professoressa Mazzol-Wajnik per la sua interessantissima relazione. Sono molto lieto di succedere qui stamattina ad una rappresentante della Università di Innsbruck, dove mi sono laureato in giurisprudenza molti anni fa. Forse posso anche aggiungere che mio padre era professore di storia alla Università di Innsbruck ancora più anni fa. La professoressa ha praticamente spiegato molto più eloquente di me perché sono qui per consegnare delle onorificenze. L'Istituto Storico è stato fondato nel 73 con lo scopo di promuovere lo studio delle relazioni tra l'Italia e i suoi vicini al di là del Brennero nell'ambito della storia europea, tenendo conto in particolare anche della storia trentina e tirolese. Un compito il quale senza dubbio, l'abbiamo sentito, ha assolto su vasta scala. Le numerose manifestazioni che negli ultimi anni hanno visto riuniti a Trento scienziati dell'Italia, Austria e Germania lo dimostrano in modo impressionante. Storici austriaci hanno sempre collaborato con grande entusiasmo e questo si può dedurre anche dalla pluriennale presidenza del professor Vandruska, decano degli studiosi della storia in Austria. In tutti quegli anni l'Istituto non ha esitato di toccare anche argomenti di controversia, come è accaduto per esempio durante una settimana di studio nel 84 sul tema fascismo e nazionalsocialismo, oppure nel corso di un seminario sulle minoranze etniche l'anno scorso. Anche in occasioni simili l'Istituto si è sempre presentato come teatro di discussioni disinvolte, contribuendo così alla comprensione reciproca dei singoli punti di vista. Con le sue attività l'Istituto ha cominciato molti anni fa di realizzare nel quadro delle sue competenze il concetto della collaborazione transfrontaliera regionale nel modo migliore, e devo dire che questo esempio potrebbe servire come modello per altre iniziative simili. Il nostro Istituto Austriaco di Cultura a Milano, inaugurato l'anno scorso, e il precedente reparto culturale del Consolato hanno sempre partecipato con piacere alle manifestazioni indette dall'Istituto Storico e anche dall'Istituto Trentino di Cultura. Per esprimere la sua stima delle attività dell'Istituto Trentino, il governo austriaco ha proposto al Presidente federale della Repubblica Austriaca di onorare 3 collaboratori di questo istituto. I nomi sono già conosciuti. Il professor Paolo Prodi, egli stesso uno storico affermato in Italia e all'estero nella sua qualità di direttore, e anche indipendentemente da essa si è sempre adoperato per promuovere in modo particolare le relazioni con università e colleghi austriaci. Conseguentemente, il Presidente della Repubblica austriaca ha conferito al professore la Croce d'Onore di prima classe per le scienze e le arti. Allo stesso modo si è reso meritevole il professor Pierangelo Schiera nella sua funzione di consigliere scientifico aggiunto dell'Istituto Storico. Il nostro presidente ha pertanto conferito a lui la Croce d'Onore per le Scienze e le Arti e devo dire, dopo aver sentito la relazione della professoressa Mazzol Walnik, che questa onorificenza e anche, diciamo, in onore di sua moglie. Nessuna struttura amministrativa può funzionare senza l'aiuto dei numerosi collaboratori che lavorano dietro le quinte. Questo compito spetta soprattutto alla segretaria generale dell'Istituto, la signora Karen Krieg, che da 20 anni svolge questa attività con grande successo. Il presidente austriaco ha conferito alla signora Krieg la medaglia d'oro al merito della Repubblica Austriaca. Prima di concludere, vorrei approfittare di questa occasione per presentare un nuovo collaboratore del nostro consolato a Milano che ci ripresenta qui a Trento, il cavaliere ufficiale Mario Echta, che è stato nominato recentemente vice console onorario dell'Austria qui a Trento. Vi ringrazio per la attenzione.